24 mattino. Allora ripartiamo dall'Austria. Sapete la grande avanzata dei partiti di destra radicale, la sconfitta dei socialdemocratici. Ma voglio iniziare con una prosa tutta particolare, quella geniale, diversa, provocatoria di Giuliano Ferrara sul Foglio di oggi in prima pagina. L'Austria mi dà fastidio, è ridicolo ma è così. Ha un reddito pro capite di 45.000 euro, il più alto d'Europa. La disoccupazione, scrive Giuliano Ferrara, è ai minimi. Hanno trovato il modo di decristianizzarsi senza strepito, smettendo di andare in chiesa, questi cattolici controriformisti dei miei stivali. Sono principi della dissimulazione. Hanno convinto il mondo che Mozart era di loro e Hitler fosse tedesco, mentre è vero il contrario. Come modelli politici, dopo un'onorata storia di grandi coalizioni, gli austriaci si sono scelti qualche anno fa Haider, vissuto da araldo del nazionalismo etnicizzante e caduto da eroe del piacere, una meteora. Adesso, scrive Ferrara sul Foglio, pagina 1, nel corso di una campagna elettorale piena di buchi, di falsi, di intimidazioni, si sono scelti questo Strache, un haideriano di riporto, e questo Kurz, che sarà anche giovanissimo, ma poi chi se ne frega, ha tutto l'aria di un opportunista in erba. Mi mette di cattivo umore il loro benessere mischiato al cattivo umore. Vivono di lavoro distaccato, a carico loro che non vogliono fare certi lavori, e dei paesi dell'est europeo dei quali ricavano uno su sei la manodopera per arricchirsi tutti. Ecco, uno comincia così la giornata e ha veramente un parere un po' controtendenza. E allora andiamo su qualcosa di più tradizionale. L'Austria sceglie a destra, l'ascesa dei nazionalisti, nuove spine per l'Europa, è il titolo della Stampa. Il fondo, il populismo sui confini del Brennero, di Stefano Stefanini. Il fatto, questa era l'apertura della Stampa. Il Fatto Quotidiano, porta borse, il PD si tiene i soldi, è un'apertura diciamo anomala, come definiamo ogni volta. E il pezzo di Gianluca Roselli a pagina 2, addio le promesse fatte dopo lo scandalo svelato dalle Iene. Il Sole 24 Ore, casa, riforma continua, una novità ogni 23 giorni, per i privati 78 modifiche dai permessi all'energia. E poi un fondo che leggeremo, fisco digitale, cosa insegna il caos dello spesometro. Il Messaggero, Austria, svolta a destra anti-immigrati, il caso Vienna, il fondo di Marco Gervasoni sul Messaggero, come battere i populisti sul loro terreno. Se ci fosse una ricetta. Libero, passante ucciso da nigeriano. Catenaccio, qualcuno parla ancora di integrazione? E il fondo di Gennaro San Giuliano, in Austria hanno vinto i cloni politici di Berlusconi e di Salvini. Il Tempo, ecco come farsi rimborsare la Tari, lo vedremo. Rifiuti, tariffa stellare e servizi da terzo mondo, ma una sentenza apre gli indennizi, possibile ridurre l'importo fino al 40%. Vi sembra poco? No, perché secondo il quotidiano di Gianmarco Chiocci in ballo c'è 1,5 miliardi di risarcimenti. Italiani in arresto, blitz delle toghe, i magistrati ricattano il Parlamento, ora approvate lo Ius Soli. Ma l'Austria vira a destra, vincono gli anti-immigrati, il fondo di Alessandro Sallusti proprio su questo tema. E poi abbiamo, va bene, la Gazzetta dello Sport, il Corriere dello Sport, si ragiona ovviamente sull'Inter, e il Corriere della Sera. Austria più a destra con Kurz, sarà il più giovane leader del mondo, ipotesi di coalizione con gli eredi di Haider. Allora, però andiamo subito a Paolo Valentino, che ci dice chi è, se volete saperne di più. Un solo blocco di conservatori ed estremisti. Nella notte del trionfo di Sebastian Kurz, il leader dell'estrema destra, Strache, riassume la morale delle elezioni viennesi. Una cosa è chiara, ha detto il capo della FPO. Il 60% degli austriaci ha votato per il nostro programma. Sostiene Valentino. Ecco qua, Le ultime proiezioni danno i popolari di Curzio al 31.7, una progressione di quasi 8 punti rispetto al 2013. La SPO è seconda di misura con un 26.9 che ripete in fotocopia il risultato di 4 anni fa. Strache e il suo partito guadagnano quasi 6 punti, attestandosi intorno al 26%. Tornano cioè ai livelli raggiunti nel 99 con Jorge Haider. Crollano i verdi che perdono quasi 9 punti e sono sotto la soglia del 4%, sicuramente esclusi dal Parlamento, ci racconta Paolo Valentini. Pagano la scissione del ribelle Pils, la cui lista invece è data sopra il 4%, quindi accetta di entrare nel Parlamento. Allora, vi dicevo però che Valentino fa anche il ritratto importante a pagina 5, la marcia di Sebastian Cappa. Aveva fretta, ha fatto la scommessa della vita e ha sbancato il tavolo. Sebastian Kurz ha vinto le elezioni politiche e quasi sicuramente sarà il prossimo cancelliere dell'Austria. A 31 anni, il leader dei popolari sarebbe il più giovane capo di governo del pianeta. Lo chiamano il bambino prodigio, dice Valentino. È nato il 2 agosto dell'86, suo padre era insegnante e la madre era insegnante, ha studiato legge ma ha abbandonato l'università, attratto dalla politica. Eppure di sé ama dire che non voleva fare il politico di professione, che la politica gli è passata vicino e se l'è preso. A Vienna, dice Valentino, se lo ricordano nel 2009 quando si candidò al consiglio comunale e girava per la città in un JLO Mobile, l'auto figa, dove il secondo termine sta sia per cool sia per l'altra cosa. Infatti a bordo del SUV si accompagnava a diverse signore succintamente vestite. Lui, Kurz, distribuiva profilattici neri, il colore del partito, per sottolineare l'aspetto eccitante della una volta noiosa formazione politica. Ma questo è il passato di cui il futuro cancelliere non parla volentieri, anche perché sul piano privato Kurz è un vero è un uomo molto romantico. Da quando ancora studiava, una compagna, la bionda Suzanne, 5 anni più giovane di lui, che non l'ha mollato un minuto durante la campagna elettorale con un percorso da perfetta First Lady. La marcia dei Radeschi verso il potere e Sebastian Kurz, conclude Valentino, lascia senza fiato. Sottosegretario all'integrazione a soli 24 anni, deputato a 26, ministro degli esteri un anno dopo, subito a suo agio nella platea del mondo. Bene, queste sono le notizie che ci arrivano dall'Austria, però arrivano anche delle notizie importanti dall'Italia, con la grande esternazione di Berlusconi che prendiamo dalla Stampa, pagina 4. Poi cambiamo tutto il sistema delle intercettazioni telefoniche. C'è qualcuno di voi che ancora si fida di dire alla propria mogliettina un complimento birichino al telefono? Alzi la mano. Quindi qui o non avete moglie oppure non ci sta. Allora, dicevo, mentre un ascoltatore mi ricorda che il quinto segretario del PD è stato Franceschini, grazie Aldo, lo avremo ospite fra poco, credo. Allora, Berlusconi, faremo cappotto nei collegi in Veneto e in Sicilia. Va bene la lezione pirotecnica, le battute, il bidet consigliato a Gheddafi, ma la cosa che a me sembra interessante è che iniziano ad arrivare le prime simulazioni su come funzionerebbe il Rosatellum bis. Allora, sentite, ho fatto un po' di conti. La campagna, per quel che riguarda Forza Italia, fra Caserta e la provincia di Napoli, riuscirà a conquistare, ci racconta Amedeo La Mattina nel suo retroscena sulla Stampa, almeno 6 collegi uninominali su 22 della Camera. E questo in base ai sondaggi di queste settimane, che danno il partito di Berlusconi in quella regione al 24%. Se il Cavaliere e la nostra capacità ci porteranno al 30%, potremo fare bingo. Brunetta Ischia ci ha spiegato che se arriviamo al 40%, la vittoria nei collegi uninominali cresce in maniera non proporzionale ma esponenziale. Berlusconi e i suoi esperti hanno cominciato così a fare un po' di conti, scrive La Mattina sulla Stampa, sulla base della nuova legge elettorale. Conti parziali relativi alla Camera e sulla base dei sondaggi. Viene fuori che in Veneto il centrodestra unito, sentite, potrebbe conquistare tutti e 17 i collegi uninominali, cappotto anche in Sicilia. 20 su 20, sempre che le regionali del 5 novembre vinca il centrodestra di Musumeci. In Piemonte il centrodestra potrebbe vincere 10 collegi su 17, in Liguria 4 su 6, nel Lazio 7 su 21, in Puglia 5 su 16. In Emilia-Romagna e Toscana dipenderà dal peso di MDP, da quanti collegi bersaniani riusciranno a strappare al PD. Allora, questo è il primo break prima della pubblicità, ma vedete che il vento dell'Austria soffia in qualche modo anche in Italia. Pubblicità, meteo, ci vediamo dopo. Ciao papà, sei obeso. Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Dottor Jay e Mr. I. Trasforma la tua azienda con Jay Galileo e Power 8. jaygalileo.com. Mattino. Posso dire che magari di questi tempi uno può immaginare che la sua posizione è una posizione legata alla fine delle legislature e magari alle prossime elezioni? E perché? È perché, come dire, so voti, no? Sì, ma io non mi presento. È sicuro, quindi, sicuro? Al 100%. E anzi, vede, una delle ragioni per cui è giusto che non mi presenti è che sennò ogni cosa che io faccio o farò da qui alla fine della legislatura sarà interpretato in questo modo. Vuole prendere voti, vuole fare questo. È su tutti i giornali, Carlo Calenda, la sua intervista a Lucia Annunziata con il gran rifiuto. Non mi candido alle elezioni e dunque... sul Corriere, sulla Stampa, sul Giornale. Calenda sogna da premier, non mi candido. L'interpretazione è un po' malevola, come per dire, fa un passo indietro per poi farne uno avanti. Ma il senso è questo: non mi presento sicuro al 100%. Certo, perché mai Carlo Calenda dovrebbe correre il rischio di cavalcare quello che si presenta come una feroce campagna elettorale, magari col rischio di restare fuori? Meglio sedere in panchina per poi accodarsi sulla poltrona giusta. Dicevo che questa è l'interpretazione malevola, ma Calenda ha spiegato che siccome sta dando battaglia su molte partite importanti, non vuole che sia viziato dal sospetto di un impegno politico. E perché questa esternazione? Perché da giorni circolava il nome, ma lui farà una delle liste centriste che appoggeranno il PD. Ebbene, oggi il grande Atlante, per chi è curioso dei numeri della politica, pagina 6 e 7, una doppia pagina, il grande Atlante di Ilvo Diamanti su Repubblica ci dà degli scossoni, ripeto, quel vento austriaco che soffia. Pensate, Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia salgono al 34%, il PD è terza forza al 26% e soprattutto è interessante vedere che le tre diverse formazioni di sinistra, alla sinistra del PD, articolo 1 3.7, Sinistra Italiana 2.2, Campo Progressista 2%, salgono complessivamente al 7.7%, però sono divise. Quindi è uno scenario che sembra prefigurare i numeri di cui parlava con un po' di ottimismo Berlusconi. Attenzione, perché Diamanti fa anche un focus su cosa pensano gli italiani del caso catalano, e pensate che la maggioranza sta dalla parte dello Stato centrale spagnolo. Fra gli elettori del PD 65%, scrive Diamanti. Fra MDP 59%, fra Alleanza Popolare 52%, anche fra Forza Italia 67% degli italiani d'accordo che votano Forza Italia d'accordo con lo Stato centrale spagnolo, 39% persino fra quelli che votano Lega Nord. E infatti il secondo titolo di questo focus è: ma in Italia non c'è l'effetto Catalogna. Allora, dicevo, Diamanti su Repubblica: si è aperta una lunga stagione elettorale, si concluderà con le prossime elezioni politiche probabilmente in marzo, e intanto altre scadenze si susseguono a ritmo serrato. La prima domenica prossima è il referendum sull'autonomia, quindi il rinnovo del presidente dell'Assemblea regionale siciliana a inizio novembre, mentre altre elezioni che si svolgono in altri paesi suscitano tensioni anche da noi, e quindi qui si parla dell'Austria. Allora, c'è stata la festa del Partito Democratico. Gli echi di questa giornata di sabato, piena di cattiverie si trovano sul Corriere della Sera. Perché cattiverie? Perché c'è praticamente fra i fondatori di 10 anni fa non ce n'era nessuno. Basta leggere l'incipit di Aldo Cazzullo a pagina 9. Pare una delle vecchie foto di inizio Novecento che ritraggono famiglie numerose destinate a essere disperse dalla vita e dalla storia. Per il momento sono ancora tutti insieme, ma fra poco lo zio emigrerà in America, il cugino in Australia, il nipote andrà in guerra e il figlio passerà al clan rivale. Allo stesso modo, scrive Cazzullo, a soli 10 anni alla fondazione molti padri e madri del PD hanno disconosciuto il loro figlioletto. Il progetto ambizioso che doveva unire i discendenti di Moro e Berlinguer non ha avuto una sorte diversa da quello che sull'altro fronte doveva mescolare liberali e posmissini. E se l'Italia di oggi non ha una destra moderna ma un'alleanza forse provvisoria fra europeisti e moderati e sovranisti radicali, anche la sinistra riformista è debole e divisa, come forse più che in passato. Il bambino compiva 10 anni, dice Cazzullo, ma la festa è andata a maluccio. Prodi, il papà del Partito Democratico, aveva un altro impegno, un convegno all'Aspen. Per il padrino Parisi è stato un giorno di lutto, sua la frase. Enrico Letta è nella commissione che deve descrivere l'architettura dello Stato, ma non il nostro, un altro, la Francia. E l'uomo per cui girava in tandem i distretti industriali del Nord, Pierluigi Bersani, ha fondato un partito concorrente, e i cui leader ombra è Massimo D'Alema. Accanto ai mediani faticatori come l'Emiliano Migliavacca e portatori di voti come Romagnolo Errani, tutti scissionisti del PD. Cofferati si è ritirato, si è rifatto una vita a Genova, Del Turco ha avuto i suoi guai in Abruzzo, Rosi Bindi è sul piede di uscire, Bassolino ci sta pensando, Rutelli è fuori da tempo, Dini è tornato a destra, Gerd Lerner consiglia Pisapia, il gigante buono Angelo Rovati, l'economista De Cecco e la grande Tullia Zevi sono morti. Rosa Russo Iervolino è stata condannata dalla Corte dei Conti e insomma Carlin Petrini è tornato all'ardo di colonnata alla cipolla di Tropea. Anna Finocchiaro ha annunciato che non si ricandiderà. Uno scenario desolante, ma questa è la fotografia di sabato. Vi leggo l'intervista interessante di Emiliano a Monica Guerzoni e dice: nessuno di noi è stato invitato alla festa dell'Eliseo. Non è stata preparata una festa in realtà, ma una riunione ristretta in un piccolo teatro e con poca gente, segno che c'è poco da festeggiare. È già tutto scritto, si dà per scontato che arriviamo terzi e nessuno sembra sconvolgersi per questo. Quindi quanti posti in lista le ha promesso Renzi in cambio del suo sostegno? La Guerzoni sempre molto all'osso. E Emiliano risponde: Renzi non fa sconti con nessuno, quando farà le liste scopriremo cosa ha deciso. Se fosse lungimirante cercherebbe di avere Emiliano dalla sua parte, dice Emiliano, e te credo. E se invece venissimo indispettiti potrebbero esserci problemi gravi, rischieremmo di essere meno convincenti in questo tentativo di sostenere il PD già pieno di dubbi. Farà una lista? Renzi ci ha chiesto di fare una grande lista civica nazionale col sindaco di Bari e i governatori. Io ci metterò la faccia, persino rischiando di compromettere il mio consenso a causa del PD. E questo è uno dei leader del PD, siamo messi bene, ma vi dà la fotografia. Di Maio scrive al Corriere della Sera sul tema che è stato scelto da tutte le vostre telefonate di venerdì a sorpresa sulla legge elettorale. Ed è arrabbiato, dice che è una truffa e prova a spiegare perché. Supponiamo che alle prossime elezioni i partiti del centrosinistra in coalizione prendano rispettivamente, che ne so, dice Di Maio, il PD il 25, i pensionati il 1,5, Pisapia il 2,5, Alfano il 2,5, la lista Civetta 1,5. Tutte le queste liste sarebbero sotto il 3%, non entreranno in Parlamento, ma i loro voti non vanno né persi né vengono distribuiti equamente fra tutti gli altri partiti, ma in questo caso vanno tutti al PD. In questo modo, scrive Di Maio la sua lettera d'accusa al Corriere della Sera, il PD invece di prendere un numero di seggi proporzionale al suo 25%, ne prende il 33%, che significa il 32% in più dei seggi rispetto a quelli che gli spetterebbero. Questo è il nodo della legge elettorale, come vengono ripartiti quei voti, e questo vi dà l'idea di quanto sia combattuta questa questione. Allora la pagina politica nella segna si ferma qui, ma subito dopo le strade torniamo con il caso che mi appassiona, Asia Argento, e ovviamente con la cronaca e con i soldi. Ma voi veramente non state bene, fatevi vedere, io ve lo dico fraternamente. Ma vi volete rilassare? Mannaggia. 24 mattino. E allora l'Alitalia, dov'è finita l'Alitalia? È congelata in una specie di criosonno gestito dai commissari, ma intanto fioccano le offerte. Allora bene fa il Corriere a raccontare che i tedeschi hanno un piano. Ecco Lufthansa, 500 milioni e, attenzione, 6.000 tagli. Un'offerta, scrive Leonard Berberi, di circa 500 milioni di euro concentrata sulla sola parte aviation, la flotta, i piloti, gli assistenti di volo, gli slot, il dimezzamento del personale, la riduzione delle attività di corto e medio raggio, da anni in perdita per la concorrenza del low cost, e un ruolo ancora da definire di Etihad, l'ex azionista in minoranza con il 49%. Ecco le intenzioni su Alitalia da parte del colosso dei cieli tedesco, così sintetizzato al Corriere da tre diverse fonti alla vigilia della scadenza per le 18 di oggi dei termini per la presentazione delle proposte di acquisto di tutto o di parte del vettore tricolore. Le stesse fonti sottolineano come il governo sia orientato a respingere per qualche mese l'ipotesi tedesca, ritenendo i sacrifici occupazionali intollerabili. L'obiettivo dell'esecutivo sarebbe quello, attenzione, di spostare il confronto, attenzione, a dopo il voto previsto per il marzo prossimo, negoziando magari sulla riduzione dei dipendenti in cambio dell'ingresso di fondi come la Cassa Depositi e Prestiti. Attenzione, l'Alitalia è tenuta in coma farmacologico per superare il voto, e però la sorpresina è che 6.000 potrebbero andarsene a casa se ci fosse questa opzione, che poi è una delle più serie, che è quella dei tedeschi. Ricordate le buste biologiche che vi hanno appassionato tanto e che hanno acceso anche la rabbia dei nostri ascoltatori? Ci ritorna sopra il fatto perché alla fine questo particolare questa tassa, diciamo, ecologica sta prendendo forma. Al mercato di buste bio a noi toccherà sempre pagarle. 40% la percentuale minima di materia prima rinnovabile presente nelle nuove sportine. Nei negozi e nei supermercati il costo di quelle ultraleggere arriverà a 10 centesimi. Sarà più alto di quelle inquinanti e ricadrà sui consumatori. E questo vi fa arrabbiare, lo abbiamo sentito nella puntata in cui ne parlammo per la prima volta. Allora, non potranno essere regalate e saranno obbligatori al bancone, racconta Patrizia De Rubertis, al bancone della frutta, delle verdure, in pescheria, in macelleria, in panetteria, in gastronomia, e su queste si appiccicheranno gli scontrini dopo aver pesato la merce, e il costo ricadrà totalmente sui consumatori. Non ci sarà neanche un'alternativa per ovviare all'ennesima beffa, cioè il supermercato non potrà regalarle. Sentite le multe che sono confermate, lo avevamo accennato, era un'indiscrezione, ma adesso nel pezzo del fatto ce la conferma. In caso di trasgressione per il negozio o il supermarket, infatti, cioè se danno un'altra busta, se non la fanno pagare, sono previste multe che partono da 2.500 e arrivano a 100.000 euro, no, 10.000 sarà un errore di battitura, nel caso in cui la violazione dovesse riguardare un ingente quantitativo di buste, oppure se il valore del sacchetto fuori legge è superiore al 10% del fatturato del trasgressore. Quindi il sacchetto biologico diventa una novità. Ma la cosa più interessante è la saga dello spesometro. La trovo sulla prima pagina del Sole 24 Ore e il fondo di Raffaele Rizzardi, e vi dà un saggio. Ne leggo un pezzo perché è avvincente. A mezzanotte di oggi dovrebbe chiudersi l'operazione spesometro 2017 primo semestre. Usiamo il condizionale, scrive Rizzardi, in quanto dalle continue segnalazioni dei lettori e dei navigatori risultano ancora complessità e inefficienze del sistema di acquisizione dei dati. Molti contribuenti hanno pensato di agire rifacendosi a tecniche da esodo estivo, come d'estate quando tutti cercano la partenza intelligente nelle ore più strane e si resta ancora più imbottigliati. Non è godibile, però c'è da piangere. Nel caso dello spesometro, già immagino le urla di Oscar, ma questo è un commento mio, c'è stato chi ha rinunciato al riposo e si è messo il computer in prossimità della mezzanotte, sperando in una maggiore reattività del sistema. Ecco invece che una segnalazione relativa alle ore 22.50 del giovedì scorso ha gettato nello sconforto. Un contribuente inizia a caricare la prima fattura e dopo qualche tempo in cui vede girare a vuoto l'indicatore del trasferimento dei dati, legge il messaggio «Servizio occupato, si prega di riprovare». Torna indietro e per 3-4 volte cerca di confermare i dati, ma la risposta del sistema non cambia. A questo punto si va ovviamente a dormire confidando in tempi migliori. Signori, ma può funzionare così qualcosa? Casa, riforma continua, vi dicevo, una novità ogni 23 giorni, sempre dal Sole 24 Ore. E poi la cosa più interessante, siccome sarà una specie di guerra civile, pagina 3, c'è tutta la tappa della rottamazione, riapertura a tappe forzate, Giovanni Parente, l'apertura, versamento entro il 30 novembre per le rate saltate o insufficienti. Per i ripescaggi non è la qualificazione di un mondiale, per il ripescaggio domanda entro fine anno. Quindi ricordate che entro il 30 novembre, altrimenti non partecipate al gioco. E qui c'è l'analisi di Mauro Meazza, carina fin dal titolo, il lato diabolico delle sanatorie. Sanare umano, perseverare può diventare diabolico. L'ulteriore occasione della rottamazione delle cartelle esattoriali annunciata dal decreto legge varato venerdì dal Consiglio dei Ministri diventa sicuramente un'ottima opportunità per rimediare a più di un inghippo creatosi in questi mesi. Ma poi, se volete sapere come fare, ecco lì. Allora è arrivato il Corriere, Special Simone, Corriere dello Sport, tutto dedicato a Inzaghi. E poi la triste notizia di Manolas, che ha preso una botta ed è fuori per un mese. E vi dicevamo di Asi Argento. Io ormai sono sedotto da questa saga. Una grande intervista alla Stampa ha riaperto il caso, due novità, due denunce. Giustamente il Corriere dedica pagina 15 e c'è una sfilza di 40 donne che hanno denunciato Weinstein, il famoso ormai produttore mandrillo, scusate la crudezza del termine, e sono 40 donne che lo denunciano, fra quelle che hanno accettato e rifiutato. La Jolie, Romola Garai, Erika Rosenbaum, ma non lo so, c'è chiunque dentro questo elenco, ve lo vedete voi se vi interessa. La Cucinotta prende posizione, uomini poveri, vigliacchi, le donne imparino no, però il problema dell'Argento sono queste due denunce. Entrai nella roulotte di un regista attore italiano, lui tirò fuori il suo pene, avevo 16 anni e parlavamo del personaggio da interpretare. Non solo, a 26 anni, quindi 10 anni dopo, un grosso regista statunitense con il complesso di Napoleone mi dette la droga e lo stupro e mi violentò mentre ero incosciente. Questa cosa spinge la Stampa a intervistare un grandissimo agente cinematografico, Lucherini, che racconta una storia, non la conoscevo, di Mastroianni e la Mangano, che erano fidanzati e che furono costretti a separarsi per volontà del vecchio De Laurentiis. De Laurentiis disse alla Mangano che avrebbe messa sotto contratto a patto che lasciasse Marcello, e così andò. Lei fece il film, De Laurentiis la sposò e Mastroianni, prima di arrivare a ruoli importanti, fece una gavetta lunghissima. Questa era l'Italia. Giornale Radio, Strade, e poi torniamo con i cani e con i gatti e con Oscar Giannino. A Radio 24 c'è Luca Telese, una volta al mese. No, tutti i giorni di primo mattino c'è anche Oscar Giannino.